Benvenuti. Oggi ci tuffiamo in un argomento, affascinante e in continua evoluzione, l'intelligenza artificiale generativa e il diritto d'autore. Un campo che corre, eh? Velocissimo. E per farlo usiamo due fonti particolari, due edizioni dello stesso libro, L'autore artificiale, di Simone Aliprandi. Ah, interessante questo approccio. Sì, ci dà una prospettiva quasi unica sui cambiamenti in pochissimo tempo. Ok, allora iniziamo a spacchettare un po'. La missione qui è capire proprio le differenze chiave. Cosa è cambiato nel dibattito tra la prima e la seconda uscita? Ma guarda, la velocità è proprio il punto. La tecnologia, soprattutto da fine 2022 in poi, ha fatto un balzo tale che le analisi invecchiano subito. Immagino. La prima edizione, basata su riflessioni fino alla primavera 2023, catturava proprio l'inizio, diciamo, del grande dibattito pubblico, quello post-ChatGPT, per Certo. intenderci. La seconda edizione, invece, ci fa vedere un panorama già diverso, con questioni più a fuoco, alcuni punti fermi, insomma. Partiamo da un esempio concreto, la giurisprudenza, i casi legali. Sì. Nella prima edizione si accennava alle prime cause importanti, no? Anderson contro Stability AI, Getty contro Stability AI, ma erano proprio agli albori, inizio 2023. Esatto, si parlava più che altro di potenziali battaglie legali, delle prime mosse. Non c'erano ancora state, diciamo, decisioni vere e proprie. E invece nella seconda. Beh, nella seconda edizione non solo ci sono aggiornamenti su quelle cause lì, tipo le prime sentenze su mozioni preliminari o richieste specifiche, Ok. ma compaiono anche casi nuovi, più recenti, con un impatto già più tangibile. Penso ad esempio alla causa tedesca Knishk contro Lion, quella del settembre 2024. Ah, quella è importante, vero? Molto, perché ha iniziato a mettere in discussione, diciamo, l'efficacia pratica dei meccanismi di opt-out. Cioè, la possibilità per chi ha i diritti di dire no, grazie, non usate le mie opere per addestrare l'IA. Proprio quello, previsto dalla normativa europea sul text and data mining. Quindi, vedi, si passa dalle domande iniziali a prime risposte o quantomeno a problemi concreti emersi dai tribunali. Capisco. E un'evoluzione simile c'è stata anche sul fronte normativo, immagino. Certo. La prima edizione guardava la direttiva UE sul copyright del 2019, soprattutto l'eccezione per il Text and Data Mining, il TDM. Sì, l'analisi automatizzata di testi e dati. Esatto, e poi si parlava delle bozze iniziali dell'AI Act. Era tutto un po' in divenire. Proprio così. Invece, nella seconda edizione, l'AI Act europeo viene analizzato in uno stadio molto più maturo, praticamente quasi definitivo. E cosa cambia? Beh, ci si sofferma sugli obblighi specifici per le IA generative, come la trasparenza sui dati di training. E qui Aliprandi solleva un punto interessante, emerso nel dibattito più recente, Ovvero? che anche con questo obbligo di trasparenza, capire esattamente quali dati sono stati usati per addestrare un modello resta complicato, sia tecnicamente che legalmente. Si aprono delle zone grigie, insomma. Ah, chiaro. E il confronto tra Europa e Stati Uniti? Quello c'è in entrambe le edizioni, ma nella seconda è forse più dettagliato nelle implicazioni pratiche, proprio alla luce dei casi recenti. L'approccio UE con l'eccezione TDM e l'AI Act contro il fair use americano. Quindi non solo leggi e sentenze nuove, ma anche una comprensione più profonda di come funzionano queste tecnologie, giusto? La seconda edizione sembra affinare i concetti. Sì, assolutamente. Per esempio, chiarisce meglio alcuni equivoci diffusi. Tipo? Tipo il fatto che le IA generative non fanno un semplice copia e incolla o un collage. No, apprendono dei pattern complessi dai dati. Ok. E poi introduce esempi nuovi, più pratici. C'è l'esperimento che l'autore stesso ha fatto con Copilot Designer. Ah sì? Sì, per generare un'immagine ispirata a una foto famosa, ma senza nominarla nel prompt. Proprio per testare i limiti, no? Fino a che punto è somiglianza quando diventa violazione. È interessante. E lo stesso Aliprandi ammette, nella seconda edizione, che pochissimi paragrafi sono rimasti identici alla prima, segno che ha dovuto rimettere mano quasi a tutto, data la velocità degli eventi. Cavoli. E sui termini di servizio delle piattaforme AI, tipo OpenAI, Midjourney, ci sono differenze tra le due analisi? Guarda, l'analisi di base resta quella. Entrambe le edizioni confermano che queste piattaforme tendono ad attribuire la proprietà dell'output all'utente. Ok. Edizione è una riflessione sull'aspetto psicologico. Cioè? La FOMO, La fear of missing out. Quella paura di restare indietro, che spinge tanti utenti ad accettare i termini di servizio senza leggerli davvero. E il classico accetto senza pensarci. Esatto. Quasi una delega in bianco alle piattaforme per definire le regole, in un campo dove il diritto, oggettivamente, fa fatica a stare al passo. Insomma, questo confronto tra le due edizioni ci fa vedere plasticamente la corsa tra tecnologia e diritto. La seconda edizione non è solo un aggiornamento, è proprio la foto di un paesaggio già cambiato. Decisamente. E significa che per restare informati bisogna, aggiornarsi di continuo. Esattamente. La differenza fondamentale, secondo me, sta nella concretezza che si è raggiunta. Si è passati da questioni molto teoriche, prime schermaglie legali, quelle della prima edizione, sì, a precedenti giudiziari specifici, a norme come l'AI Act quasi pronte e a una consapevolezza molto maggiore delle sfide pratiche, come vediamo nella seconda. Vero. E questo forse ci porta a una domanda finale, una riflessione per chi ci ascolta. Vai. Ecco, vista la velocità di cambiamento che abbiamo visto solo tra queste due edizioni, in poco più di un anno, quali nuovi dilemmi legali potrebbero spuntare fuori nei prossimi 12-18 mesi sulla creatività artificiale? E come potrebbero cambiare ancora le risposte del diritto, ma anche della tecnologia stessa?